vaccino, ma se su questo vaccino lì, vaccino là, blu blu, questa cosa va così nella terra e sta lì, va che da venire lì, va. E così mentre si tiene una caccia la massa che ne va. Ah no, è così, è così. C'è poco da fare. E vabbè, là. Facciamo perdere le malattie adesso che se gli avremmo passato. Lasciamo la cavolo vasene che si è vestito in mezzo. Tanto, vabbè, noi siamo sempre vestiti in mezzo, che siamo noi, però noi andiamo ad avanti onestamente, che ci sono almeno ad avanti con i bauli e con la disonestà. Infatti, allora a vedere che da che si mangia ne viste che l'ultimo pezzo di un bambino di la maledizione che è trabaccia, a vedere che furono e di saranno bizzani e tanto me. Da che se si muore non si si bucca ne nulla, quindi un discorso è solo che nai o non nai, poi prendi via di farati da buco, quindi. E quindi più bene ti comporti, più bene vivi e niente, e magari campi brutti come si campava le prime erogi e centenari che mangiavano la roba sana e si abbiantavano e facevano meno di questi cordombri e abusi strani come si disegnano. E se che dica cordombri, allora così cazzo due bollo a russo di chi si va in campagna in Ivi, oiuia, anche per cordombri sono, eh? Allora, infatti è così, ma ci vuoi fare? Avanti, Gabino! Io ricordo bene, i miei bagni mi piacciono già, buoni, eh? A me mi piacciono. Ehi, anche io lo mangio qualche volta, Gabi, con l'ombre, i sofficcini, e all'epoca, quando c'era povera nonna, e che sono usciti queste nuove cose erano buone perché loro abituati tutti a mangiare sempre verdure, fagioli e puchidu, si può fare la domenica, ragnonedu, come si dice poi la ravanella, la sai come verdure così con l'olio, col pinzimone e quindi queste novità erano buone perché erano, però non puoi stare ogni giorno a mangiare queste cose, ogni tanto devo cosa ne so, dei straccetti di pollo, un'insalatina, cioè roba un po' più naturale, perché se tu ti accorgi più naturale mangi e più bene stai a livello anche fisico, perché l'organismo riesce a digerirlo meglio. Se invece noi continuiamo noi a comprare tutti questi cibi complessi, perché io li chiamo cibi complessi, tipo il cordon bleu, la cosa souvenirs, anche le patate fritte di adesso non sono più come le patate di una volta che erano genuine, allora sono tutti quanti buono risotto, magari una barcella brissata e fatti da buoni battatini, e non sono buoni, anche se ne mangi due o tre, no, e da buoni di salse ne risolvamo. Tutto lì è anche una questione di equilibrio sul mangiare, che ci dobbiamo riguardare anche un po' noi, anche se noi, se ti buona mangiare tutto quanto che viene, guarda, da chi sarà un domani, dici ragazzi, visto, come ti dici, è rimasto in tre ore quasi, per i conservanti va 30 la bella e mezza anche mezza a lui. Io e Cettino, fatelo entrare. Avanti Pino! Fra, tu vedi in cosa? TRM? Sì, no, Tino ci inteso, è lui che si può vendere il blu. No, pensavo che era Tino, perché avete lo stesso segnale, dai. Ho già, io già le mangio, però non fatemi bene, Comunque. Ogni tanto, la prossima volta non mesi, te ne capi lo guscio, te ne togli il gusto già. Non fanno bene, ma non fa bene niente di quello che stiamo neanche respirando, Quindi, cosa si dice vaffanculo si più bello, così è, vai però. Sì, è vero, è vero. Non c'è più nulla. Quelle a trovare la ragione già. E questi vaccini l'hanno fatto per ammazzarsi. Non l'hanno fatto per a chi si via ne va a curarsi. L'hanno solo per ammazzarsi. Ma infatti è così, ma no, io non è che sto dicendo che non bisogna mangiarle, è ovvio, come ha detto Gavino, meglio un guscio che sento marani. Però, cioè, siamo bombardati da beni alimentari esteri e gli studi avasso come se ne comprendene a niente. Perché prima anche se c'erano, magari erano fatti con le fabbriche che ci sono qua, eccetera, invece di fabbriche va. Erano venuti tutti in alta fuga, come la chissà della Siemens, la del Gozo, che tutta l'altra sagarra della vita, che c'erano i Gozi, che cattare via dalla Bulgaria, dalla chirurgia, che immatricolavano dopo la cadenza, e a noi si faceva le magna mondè. Queste cose non vanno bene perché loro hanno fatto questo patto europeo, che la roba nostra magari genuina, la bucciano nei rughi, bucciano i bisogni di denaro, se la fate nei bagabè. E a noi che non arrivano tutta la mondezza del cacchio, a chi si vuole va pure, a chi l'Italia si vuole bene, con la scusa che era una seconda potenza mondiale, perché eravamo i primi, come si dice, produttori di beni alimentari, si vuole va pure, si vuole va pure con chi si marazza, con tutti quanti chi si, come si dice, maniere risorse, che cavolo, euro, vi umiliate tutti quanti, bari stufi di ribevi, tu non ti comporti bene qua. Allora che non andavo a casa due, a chi se noi andiamo alla chirurgia al bene, se dobbiamo un po' cane con i regoli che vanno, a chi se noi la battaglia non esiste più. È quello che la gente non riesce ancora a capire un po'. Magari se ne avvisennava, però è inutile che se ne avvisi era poi come se tu due, fra. È vera battita di Guido, è vera battita di Guido, e da pure andare a rubare e sta a fare le bampallone, chi li pega, chi li rubo li pega, chi è così, è così. Tu vai all'Italia, gli togli il pallone, vedrai che c'è guerra in tutta Italia, c'è la guerra, invece mi evochi a dire la bacia, lo stipendio, 2-3 euro si cagliano i muti. Allora, ma è di così, perché anche nella carne, se allora noi facciamo un ricordo di quando la Sarrufiani e l'Usachistone e un gozo, e il sassiccione aveva il sapore del maiale, il sapore della cosa che facevano le buone macellerie, come quando c'erano le macellerie qua con tutti quanti l'ammassatori di noghi e tutti i contadini, e chi si chiamava nei rubifiami che puccava lì. È tutto quanto un impiacco che dagli uomini è tutta roba farinaccia, che non è macchina di giri, è tutto spaziato, sarà pure buono, ma non è buono, è genuino come se la bandini vita ne fanno, capito? Vero la vi, avanti. Io mi rendo conto, signori, io mi rendo conto che qua la situazione, diciamo, neanche lo Stato mia, che da voi, sì, lo Stato in primis, però la gente si preoccupa più dei problemi degli altri paesi. Manifestano per la Palestina, so, Palestina libera, Palestina Russia, da voi piglia sussidi la cosa in altri paesi, è quello, quell'altro manifestando. E da voi pari i problemi dell'Italia, siamo tutti canti. Ma non mi metto io in mezzo a quella gente lì, perché poi quella gente non fanno parte di me. Quella gente sono a parte, sono nulla facenti, figli di papà che vanno a manifestare perché dicono i miei diritti sono, i tuoi diritti sono difendere l'Italia, difendere quello che ti spetta. Quello che ti spetta è quello che hanno preso e hanno battagliato i tuoi nonni. A chi io sono così sicuro, se chi sa niente, tu ridi cosa vuol dire fare 8 ore di lavoro, non lo sanno. Ma neanche 8 ore, 5 ore, non lo sanno. perché sono tutti cappelloni, tutti. E io avevo avuto un'idea, che si dice, ma tu guardi, a me mi dicono, ma tu a Baidi, va chi so, cappellone, a chi so guidi. Se tu riponi a travagliare di fio sotto l'usore a 40 gradi, di peri così, non l'avevano avuti, se l'avevano tagliati da rucaglio. Almeno io penso questo, allora poi so che io non sono un razzista, però so che ho saputo il travaglio. E quello lo so, e quello lo so forte. A chi siete travaglia con questi cappelloni, con questi peri, proprio peri ambrosi, no? A 40, 42 gradi, forse se erano un po' carito, l'avevano impirito un po', l'avevano impitturati. Non lo so. Siamo in un mondo un po' così, però quella gente se ne accorgerà quando avrà figli, come ti dice zia mamma, che è Rubistino, avvedarai tu quando avrai figliori, avrai a rendi conto di chi su ti so come senti, aveva ragione, e vabbè, vai Franco. Noi possiamo solo parlare così, però non lo so perché Saietti ormai hanno pigliato un'altra mano e non c'è rimedio più di corrigirli. Non c'è più rimedio. A chi se invece dall'inizio la popolazione si era girata, a chi lo Stato non so etici, è la popolazione lo Stato. A chi finanzia è la popolazione. Senza la popolazione lo Stato non è nessuno. A chi siamo noi che siamo rendere di naete. Ofra, non so che va vedendo di gente straniera, io so che va vedendo di italiani, ragazzi universitari che studiano. E neanche gente di poco conto, gente per bene, gente che prende figli di papà, che prendono e sono i primi ad andare a manifestare contro l'Italia, contro il governo, che se tu poco prendi gli dici, no ma guarda che qua c'è da mettere il coso, ma noi siamo, ma tu cosa sei? Tu non versi niente, tu fin quando studi, forse tuo padre, prende e versa i contributi per cosa? Per mantenere a te. Ma se tu prendi e sei uno studente, e sei un bastardo manifestante che vai contro al popolo, tu puoi manifestare contro la Palestina, contro chi? Ma tu non versi niente, ma di cosa mi so fa vedere gli italiani? Sono una massa di imbecilli, chi ti giovani so imbecilli. Vai. Sì, perché vabbè, gli studenti non c'hanno niente da parlare, perché non solo che non pagano tasse, ma lo Stato versa soldi per gli studi, versa, perché da di Napa è così. Non si può lamentare. Il problema più grosso è l'altro, per pagare i tassi, che gli studenti cosa sono, non so nessuno, sulla vita non danno nessun intuito allo Stato. Ma infatti è quello che io ti voglio, se tu guardi di questa gente che manifesta, guarda se vedi un muratore, uno che lavora in fabbrica, uno che un campagnolo, un pastore, non ne vedi di questa gente di fra, vedi tutti studenti, o altrimenti vedi gente che lavora, gente, comunisti, oppure di estrema sinistra, che lavora sotto le dipendenze dello Stato, che hanno la papa pronta. E allora vanno a manifestare, che chiedono, e io prendo e io per un giorno o diciamo faccio, mi privo della mia paga giornaliera per andare a manifestare. Sì, però chissà di tutti la recuperi e ci dare ferie, quindi ma di cosa mi si fa i denti? Chi se lo pone va, più discorso, pone va agli ignoranti, ma non la gente che prende e lavora. Guarda se tu vedi mai un muratore che lavora oppure uno che ha un'impresa e porta i suoi dipendenti a fare uno sciopero, non è vero, ma assolutamente, oppure uno che ha una ditta di autotrasporti, non è vero, ma non è vero, perché è impossibile che vedi questa cosa qua. Quindi è gente affiancata da, diciamo, da chi ha le spalle coperte, come i comunisti e i nullafacenti. Vai Gianni. Infatti dico sì, tutti questi universitari, come hai detto tu, i figli di papà, eccetera, eccetera, sono tutti bla bla bla, nel senso che andano a manifestare, insomma, di anche io c'era una manifestazione qui, lì e là, e da voi gasto, ma io c'ho il Rolex, ma io c'ho quello, ma io... Ma gassi in affutti di cosa vai, ma vedrai a chi ti danno i dati così, con i denari facili. Quando come te di Tuduni, il muratore, lo zappatore, lo rubatore, faceva le ore che faceva, rientrava a casa a fracco, che era su di fatto quello del travaglio che aveva fatto, e si doveva comprare un pegno, era soddisfatto perché era soldi del suo sudore. No, come te dici Buccarotti, a chi io vi chiamo Buccarotti, a chi? Cioè, gli avvini andano a studiare cosa, ma studia cosa? Studia cipo che ti scrive la cura a pagamento per comprarti un diploma. E da voi ti buoni a fare la pratica e non comprendo un accidente, non sai manco Galera, visto di Galileo Galilei di Ugannocciare. Ma io, che c'hanno un modo di pensare e di agire diversamente. Poi quali figlioli da una bavana avere i figlioli? Chi che a buccare il buco dare i figlioli a chi? Già hai visto che generazione stiamo arrivando, cioè tu gli dici a cosa le bistini e ti rispondono come se la gente manna. E prima invece, prima passavo le spiate una cosa e caglia di chivi, mudo e posa di e fate i gumpi, capisci? Vero? Già, purtroppo è così. Noi, allora io parlo di me, di te. Poi Frank è cresciuto anche in un'altra epoca, perché Frank è cresciuto nell'epoca che davvero non dubito, anzi dubito travaglia in famiglia, dubito travaglia chi ti pigliavano, ti buttavano, cos'hai, risese, te migliori, a io, piano piano, a Manzano, e fortunato era che andava a scuola, e lo facevamo studiare, perché noi siamo, dai, confronto a Franco e confronto ad altri, siamo cresciuti in un'epoca un po' più fortunata, però abbiamo conosciuto anche l'educazione a chi, a noi babbo, a me fratello babbo, la nostra bettava, e non te lo dico pago, però si pisciava, mi mancava poco a pisciava, che si pisciava misotto. Adesso c'è il benessere, già. Adesso c'è il benessere, sono cambiati, però l'educazione per questa gente che va, finché l'educazione, io dico sempre, finché la cosa arriva in famiglia, diciamo è a posto, magando comenzi ad andare a manifestare per... diciamo per il popolo e manifesti il falso e poi dalla tua tasca non togli niente, perché poi chi studia cosa toglie? Un'assenza, toglie un'assenza, ravvini se all'università ma io vado e tolgo la mia assenza per lo studio e un mio, ma tu cosa ne cavi? Che pagendi va tu? Cosa cavi? Ma cosa sei capendi? Ma cosa sei, chi sei un buffone, sei un pagliaccio, cosa sei capendi? Prova a vedere un figliore, un famiglia, si anda a cavatini di 70, 80, 80 euro la di, a vedere se anda a manifestare, non te ne cavi da busciacca, fidati. e andare a travagliare, invece di andare a fare un buffone in chi viene in piazza. Riprendo subito, vai Franco. Vabbè, quelli vanno per fare casino, vanno. Perché oggi la generazione che sta nascendo, come hanno detto, dice la nuova generazione è tutta violenta. Sono sempre accuse di musciacca, piccole di musciacca, e come se l'arbusto di farla pugni, come se le partiamo minori, badini, che erano i minori, e tutto quanto. La base della custodia è più la base della base. Purtroppo questa è la nuova generazione. Oh Fra, ascolta un attimino, quando io ero ragazzo, che pigliavo e a volte t'acciapavo giù per il trastato e mi sono azzuffato. Babbo mi diceva sempre, a metà di una cosa, la di torre a casa, sappi che no che piglia una giussa, che fa se ne battezzi, eh? Quindi dovessi attento a chi ha da pure i colpi, a casa erano di chi si vedi, eh? A casa i colpi erano di quelli veri. Non vera cosa, a casa da pure mamma si poteva bagli ed erano i colpi. Quindi dovevi stare attento. O fatti da bravo in carriera, o se no, dovessi chiudere i fogli. E torna a casa tranquillo. A chi si torna che tutto, a casa erano i problemi. Quindi adesso no, non viene di chi ti cosi. Va, si torna a casa, andiamo dall'avvocato. No, invece, a tuo figliolo, i coepi, fammi ripigliare. Li fai pigliare la giussa e si torna a casa tutto, ricudi ancora, vogli, invece no, avanti dall'avvocato, invece si ricudi, alla buia che ha fatto le travaganti, la risa tra amici, e vabbè, avvocato, vai e cocati, invece vanno figli, avvocato, quello, quell'altro, telegiornale, TG5, coso, no, buchi, basta, silenzio, avvocato, ti rabbigli. O se no, prima pigliori, pigliori, cose, no, piglia, cazzutati, eri più amico di prima, no, da, tempi diversi. Riprendo subito, vai Gianni. Sì, ma era così, perché c'è tipo, e prima, perché alla fine le famiglie erano numerose, di strani effetti, vinsano i fradelli e suredi, tutti... E così anche in precedenza i nostri nonni erano un sacco di fratelli e sorelle. E perché era diversa, c'era una dinamica diversa sia per l'istruzione che per il modo di fare, come ha detto Gavino, bucavi ancora di più quando venivi a casa, quindi dovevi imparare pure a diventarti, eccetera. Invece avani. Ma no, avani va a farsi come ti ha detto Cuccelli e Piccoli e Maravisioni, però c'è anche la colpa perché queste nuove generazioni moderne, chiamiamole così, non dei bambini, della gente tipo della faccia mia d'età e della faccia di Gavino, anche quelli più giovani, e non ne fanno figli, perché non ne fanno? A chi non li conviene, a chi non li piace andare a travagliare come ti ha detto. E quindi ribiasarsi liberi a fare i buffoni, i grandi come... E quindi è per quello che non funziona più niente. E quindi arrivi nei ghiffi, Manzana contro Menzana, e un'accusa, ma perché dobbiamo andare a rubare, andiamo a rubare ai figli di papà e andiamo a rubare là. Ecco, allora non capisci i biglietti. Tanto la colpa è sempre di dica no a Birucci, mi inutile che fosse una gazzosa e dagli da bui non vesso canto. Come hai detto tu Fra, noi possiamo stare a discutere ore e ore, tanto alla fine, no, l'indomani è sempre una stessa canzone. Cananaga se ne stappa e capirassi un bene. In effetti è così. Allora, problema è che prima, come si diceva vino, lo babbo rientrava dai cura, parlava tutto quanto e ne pigliava più colpi di prima. Faceva una mancanza di cura, lo chiamava la massa, ti cudia la massa, e da lui il resto ti cudia, mamma tu io babbo duccio, ti cudia adesso a tutti quanti. Il problema è questo, va, che lo Stato deve stare attento pure un genitore, a chi dice lo Stato dice che il genitore non riesce a educarlo bene. È ovvio che non riesce a educarlo bene, quando tu hai avuto una restrizione che io a mio figlio non lo posso così, manco un ciaffo. Perché se mio figlio io dico un ciaffo e mi dici, e mi chiama la polizia, i carabinieri, mi chiama Marricani, ma un ciaffo, per averlo corrigito. E quanto posso corrigere mio figlio io? Oh fra, il problema lo sai cos'è? Non bisogna aspettare il momento che tu devi picchiare tuo figlio. A tuo figlio non devi arrivare mai a picchiarlo, devi fargli capire la cosa prima di picchiarlo. Io a mia figlia, ma guarda, io a mia figlia non l'ho mai messo un dito addosso, ma neanche mia moglie, mai, mai, mai. Eppure io con mia figlia ho una confidenza che sembra un amico, e anche mia moglie. E non siamo mai arrivati al punto di mettergli una mano addosso. Gli abbiamo fatto capire le cose con educazione, compreso. Anche da voi dici, ma mio figlio l'ho picchiato, tu a tuo figlio l'hai picchiato, tu a tuo figlio lo picchi perché non gli hai mai fatto capire l'educazione da bambino. Inutile che tu pigli a un aiburu, ribono un paranco, ribono un cricco per addrizzarlo a chi cresce va ridosso. No. Se tu a un aiburu ruboni dritto, rubianti dritto, cresci dritto. Quindi, rubicinito, se tu. Ma come eravamo noi? Come eravamo noi? Babbo, a noi da babbo si è sempre abitato a parauri. Mai con i giaffi o le cose, a parauri. Sapetava, muti, non domandi di nulla. Perché? Perché noi sapevamo che dopo, che facevamo da bravi, c'era il dubbio, quindi noi diciamo, capita, non dobbiamo domandare nulla, quindi ad voi avevamo il dubbio. A volte non vera nulla, però ad voi vero premio, cosa ti posso dire? Tutti i premi che si possono avere dei bambini. Però non chiedevamo niente, ma chi? O venivano più o venivano i giaffi. Quindi non sapete verrà un dunque. Però adesso è così. Vai fra, scusa se ho interrotto, riprendo subito. Ecco, era più di doppio che erano i giaffi. Ah, che, cioè, io, vabbè, sono nato un po' prima di voi e forse era diversa la situazione. Però non me ne invento di aver pigliato, pur già pigliato qualche ciaffo in più, non me ne invento Roma Tessa, che l'occasione me l'hanno data Roma Tessa, forse meglio di quelli che danno adesso. Erano altri tempi, fra, ma infatti ti ho detto che tra l'epoca mia di Gianni e la tua sono passati 30 anni, 40 anni ed è diverso, era diverso anche la cosa economica, fra. A chi quando tu eri bambino dovevi andare a lavorare, a chi se no la manodopera, dovevi anche quel poco, ma dovevi portarlo a casa, era diverso. Però avassi va bene divisi, avasso visi, ma non c'ho il vestito di quella, Ruvisciri. 40 anni fa Ruvisciri. Se non ti attrezzassi a andare a lavorare, non va visto nemmeno i pantaloni, poco di vicinire, e io parlo di quello. Ma poi dici, ma c'è esagerato? No, non so che è esagerato. A chi, con questi tempi che siamo oggi, col troppo benessere, tra pochi anni andremo a prendere, andremo a fare a... Mi tra un po' siamo un po' a ritornami. non se ne rende ne conto. Vedrai cosa succede. Vai di nuovo per passare Gianni, io riprendo subito. Sì, vai, vai, tranquillo, non c'è problema. Sì. Adesso vanno a scuola, sono tranquilli, sono sempre coperti, c'hanno le scarpe, mentre io non manco il volto va via, non solo per i caffetti, ma manco i volti va via. A voi di volta si deve andare in cura, si deve andare a svegliare la cuccia, io, per carità, come l'avevamo messo. Però diciamo che nonostante tutto non mi posso lamentare, non mi posso, anche se ho passato quello che ho passato, ma fame non agio mai, la verità è non agio mai baduto, perché a casa c'era sempre di tutto, mio padre era un contadino e avevamo di tutto, sia carne, di tutto, pollo, maiali, vitelli, di tutto va via. Però, di un resto, non è che qui che hanno comprato un paio di pantaloni che costavano i bandini 20 mila franchi, quando un pantalone costava 1000 franchi. E cornetta la crema e Nutella? Sì. La ci conosci di da mano, da cui vado, c'è mai. E McDonald's, e sushi? No, era per lo sushi. Lo sushi ammazzavo una iadina e me lo facevo, senza cuzzillo. Il tablet, il telefonino, i cartoni animati, anzi forse i cartoni, ma ne manco, no, tu i cartoni non li hai conosciuti. E le scarpe di marca le hai conosciute? Ma stai scherzando? Ma un paio di volte, se ti compravano un paio di volte, ti si fasciava le pigliava le cucine a ferro ferro. Forse fra l'unica cosa che tu hai conosciuto era la pianta delle fave e rugostolo di lupo a paja. Ecco, questo qua è quello che avete conosciuto, ma non parlo per ma parlo perché a me mi raccontano. Forse voi a Pasqua avete conosciuto la pasta dura con l'uovo ed era qualche dolciume come papassini, queste cose qua. Giusto per far capire quello che c'era. Dai, niente. Va bene, riprendo dopo. Vai Gianni. Aspetta. Allora, qual è la tradizione? La tradizione sulla famiglia italiana, quelle cose lì, capito? Erano l'uovo, papassini, dozzi, queste cose, erano tradizioni. Sempre in quel periodo si faceva dolci, si faceva. E purtroppo poca roba si poteva permettere. I giocattoli, per carità, prendiamo una bella frittatina e si facciamo un garrusso. E allora, ti accontentavi di poco. Quando dicono, ma io questo non lo voglio, e tu questo non lo vuoi. Si è rinunciato ad altri tempi. Io non sono dei vostri tempi, fra, perché io, grazie a Dio, e grazie a Dio ho vissuto in tempi diversi, però nei quali o mangiassi ghiso o vera ghiso, se no ti andi a cucati. Però nei tempi vostri era diverso, perché o mangiassi ghiso o se no era 3D o 2D senza mangiare. Ah va, ma cosa ti faccio, cosa non ti faccio, ma io sono il primo, perché poi cosa vuoi a mangiare, perché io sono il primo a viziare. Però i tempi stanno cambiando. Vai Gianni. Infatti come ha detto Franco erano le tradizioni, ma tuttora c'è chi ancora le porta avanti nel fare di carnevale la prigioni, di Pasqua a fare i gusti, di babassini, di gagiardini, perché è stato formato in quella maniera lì e c'era sempre quel tipo di, come si dice, distruzione. Poi è ovvio che chi è nato in una generazione, come hai detto tu, dove c'era il benessere e dove c'era già tutto, pretendere a chi pure noi, come sei detto tu, anche io, quando ti sabbandavo con uno sguardo, con una cosa, o magari puoi fare che malacchella, devo dire così, che curi vita o qualche cosa. E poi, come hai detto che c'era il premio, Pardini ti potevano comprare la bicicletta, che magari c'era l'epoca dove c'era l'innovazione della lavatrice, del frigorifero, di tutte quante queste cose che hanno fatto poi pian piano in automatico in avanti, come lo scaldabagno e la cosa. Se noi all'epoca di Franco, come ha detto lui, se la casia ne aveva, andate a pigliare un ghiaccio, ma così fa infliccare la cosa di vini o tutti quanti che si gozi. E quindi un fettadito rivolti, se ne comparavano un paggio, che cucavano, che cucavano da un gatto laggiù, se tu ti rifacciavi erano pure golpi e brimari, erano anche i sacrifici che facevano, erano in maniera, cioè come si dice, sudata. Adesso cosa va, ti dice, e tanto stava giocando, si sono bucate, cosa vuoi fare, lo mandi con le state bucate, e che vergogna, che rido, che l'altro. Quindi è una nuova generazione che purtroppo va bene anche così, perché è sempre che la generazione deve, però deve essere anche istruita, cioè non è che pure fanno tutto che l'attaccavo e dice non lo voglio, dice non lo voglio e l'altro sì, ma quello ce l'ha e l'altro non ce l'ha. Sì, si può pure fare anche questa, ma no che lo devi brittindì, perché anche tipo all'epoca mia e all'epoca tua, Gavì, quando erano usciti quei tipo pantaloni di marca, i jeans, eccetera, anche a noi ci piaceva averli, ma se ne comparava ne uno ogni tanto, quando molti disi via, non li metti avanti, ma quello me l'ho preso, me l'ho indossato, ma non mi piace, magari è un regalo da culo, oppure se ne tornano a comprare un altro. Prima non funzionava così, prima era due comparavi e se li dovevi frasare, era un giubbotto, la gente avvento, ma se ci goza, come se tu lo vedi. E per mangiare, come hai detto tu, c'era quello lì, se non ti piace, non è tutti gocchi. E vedi che tu, non lo fai domani, non riesci a mangiare oggi, domani, domani, che se avanti, domani buchi. Noi invece avanti, come stavi dicendo, ti gozzigisco, ti gozzigido, ti preparagido. Siamo in una società moderna, siamo in una società moderna dove ormai ha preso, come si dice, il filo che pretendono e quindi si adeguano, anche se noi non il gioco, magari sclerano più di quanto sclerava meno il brino. E vabbè, vuol dire che andrà bene così, però già se ne renderanno conto, se ne renderanno conto perché i nuovi nati di questa generazione ancora sono minoriti e sono piccinini. Quando avranno anche loro 18 anni, che poi avranno i figli, avranno comprendini, senti se bisogna farvi nei video, a chi avanti tutti quanti tratti mandroni che si bloccano alla buttata di Rugani, e quindi con l'accusa che gli piace la libertà, andai a pisciarsi, a fracassarsi e a imbriagarsi, e non era come prima. Prima si ubriacavi nelle feste, nelle cose, ma perché magari si poteva fare un bicchiere in più, ma era diverso, invece avai scene blu più a fragastarsi a chi devi arrivare tasto di Rubena, risane di Chiamaragano o sabato. Invece prima era tipo la domenica perché si mangiava tutti quanti in famiglia, con i familiari, con i nonni, con i fratelli, e con gli zii tutti assieme, perché era considerata una famiglia. E invece adesso le domeniche non ci vengo, mangio fuori, Guido siamo là, siamo a vedere Guido, a vedere l'altro, e quindi rimane un po' sfasata il modo di fare e il modo delle generazioni moderne. questo è il modo delle generazioni moderne. Capito? Vai, Bra. Eh sì, è vero, è vero. Generazione moderna. Schifo. Va bene. Bene, ragazzi, io mi assento perché almeno un'oretta me la faccio. Una pittinella, mi stanno chiudendo gli occhi. Magari ci sentiamo dopo, ci sentiamo. Ciao Gavino, ciao Gianni, niente, io spengo tutto e mi faccio la pittinella. A dopo. Avanti Gavino. Yes, yes, anche io. Anche io adesso prendo e mi faccio una bella pennichella. No, Fra, io invece di un'ora me ne faccio 2 ore. 2 ore, quindi 2 ore, belle, belle, belle. E sentiamo dopo, sentiamo dopo. Io metto l'RF gain a... proprio lo abbasso, tutto lo special massimo, quindi non sento nessuno, proprio segnali furti. 1 kilowatt, Fra, ma quest'altro devo punire 1 kilowatt. Devi punire 1 kilowatt, quindi... se intendiamo questa sera verso le 5. Gianni, io per comprarmi i miei primi jeans Energy, ma ci ho travagliato 1 mese dall'elettrauto, quindi a 100.000 franchi, e a casa non manca nulla, dobbiamo tutto, tutto, tutto, tutto, però l'urusso ce lo dovevamo lavorare, quindi è così. Quindi così. Dai, sentiamo stasera. Vai Gianni, chiudo e non riprendo. Buona serata. Pecchinella, come dice Franco, da parte mia. Vai Gianni. A me anche io adesso faccio così. Quindi andiamo a vedere. Buona ricarica a Franco, a te e anche a me. A chi mi ci sono drumenti pure a me luci, sono anche un po' stanco con le gambe e niente, dai, ci riprendiamo stasera, magari un trattino pure ci facciamo un altro tipo di chiacchierata, a chi, vabbè, già ci voleva una chiacchieratina così, giusto per vedere come sta andando tutta la situazione, e tanto non pudimo fare niente, però non manco qualcosina l'abbiamo discussa, dai, abbiamo passato un'oretta, un paio d'ore tranquilli. Mi ha fatto piacere e niente, aiuto, buona ricarica a tutti, allora mi fatto buio una benichella da buona, avrei bisogno di un caffè e magisteggio d'ora, vuoi mettere la bandiera. Aiuto, ciao, ciao a tutti. Cappa, dai, ciao, ciao, ci sentiamo. Gavi, se ci vuole un kilowatt non mi ascolterai mai, a chi se li si arrobano un naccio. Ciao, buona serata. Scusa, Fra? Ho detto, se ci vuole 1 kilowatt per ascoltarmi, non mi ascolterai mai. No, nel senso che sto abbassando il volume, dai. Dai, sentiamo stasera, sono a casa io, Fra. Sono a casa, quando volete. Però dopo le 5, perché prima 0 riporto 0. Buon proseguo di giornata, dai. E a dopo, ciao ciao. Ehi, capo, dai, stavo scherzando. Ciao ciao. Oh già, è lampada del telefono.